1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, eccoci, sono le 7:17 minuti, cari ascoltatori, e siamo qui nel pieno ormai della 53esima settimana decisiva per la riforma elettorale iniziata. Siamo a raccontare quello che c'è oggi sui giornali. Vi ricordo che alle 8:15, tra un'ora, torneremo sulle vicende, le polemiche dopo l'inchiesta che ha creato qualche problemuccio all'Expo. Torneremo a parlare di questo, avremo ospite il sindaco di Bari, Michele Emiliano, che più di altri ha detto a questo punto chiudiamo l'Expo, insomma un po' come fanno quelli del Movimento 5 Stelle. Avremo ospite anche Riccardo Nuti, appunto del Movimento 5 Stelle, e avremo il nostro Oscar Giannino per parlare, insomma, di quelli che sono gli appalti, quelli che sono gli scandali. Ancora oggi continuano le intercettazioni, le anticipazioni sui giornali, la polemica con Matteo Renzi che dice, domani venendo a Milano, probabilmente metterà Raffaele Cantone, colui che è a capo dell'anticorruzione, abbiamo intervistato anche la scorsa settimana, proprio a controllare tutto quelli che sono gli appalti dell'Expo. Di questo parleremo alle 8:15. Ora andiamo a sfogliare i giornali che trovate in edicola. È lunedì 12 maggio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre con giustizia telematica avanti piano, in ritardo su tecnologia e formazione, è un focus su quelli che sono le lentezze proprio della giustizia civile. Il Corriere della Sera, tenete conto che i due titoli principali sono sempre sulla vicenda delle due inchieste, Scajola e l'Expo. Il Corriere della Sera sceglie proprio la vicenda Scajola, le carte segrete di Scajola, questo è il titolo di prima pagina, arrestata la moglie di Matacena al ritorno da Dubai. Per Repubblica invece un PM per l'Expo, così la cupola pilotava le authority. Cantone a capo della task force anticorruzione. L'unità Expo, Renzi schiera Cantone. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Messaggero, appalti Expo, la stretta di Renzi. Mentre per il Secolo XIX, arrestata la donna dei misteri, e la vicenda appunto Scajola con l'arresto di Lady Matacena. Mentre per La Stampa, 100 nuove norme l'anno, il fisco soffoca le imprese. Questo è il titolo di prima pagina. Il Giornale invece, i conti non tornano, ipotesi condono fiscale. Renzi prepara lo scudo per far rientrare i capitali, ma quando lo proponeva Berlusconi era immorale. Questo è il titolo di prima pagina del Giornale. Per il Fatto Quotidiano invece l'edizione del lunedì è dedicata a un approfondimento, e in questo caso stato di ebbrezza, viaggio nell'Italia ubriaca. Si comincia a 11 anni, il 45% degli incidenti, il 41% degli omicidi causati dall'alcol. Questo è il titolo. È il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Voglio partire però da alcune notizie che mi hanno colpito. La prima riguarda un personaggio che già in passato noi intervistammo qui, e che è un generale dei carabinieri in pensione, generale di corpo d'armata Maurizio Scoppa, che in passato fu nostro ospite perché è stato un generale che ha risanato gran parte della ASL 1 di Napoli. Come oggi viene definito dal Corriere della Sera, esemplare amministratore di questa ASL, che era stato scelto qualche mese fa come esperto trasversale in legalità e sicurezza per controllare i fondi europei in Campania. E fa sapere il Corriere della Sera, ci sono 125 milioni al mese per 2 anni, ci sarebbero da spendere, una vera manna. Ebbene, il generale Maurizio Scoppa, 5 mesi dopo questa nomina, si è dimesso. Il generale vigilava sui fondi europei senza telefono. E il racconto che fa il Corriere della Sera, e trovate tutto a firma Marco De Marco a pagina 23, è il racconto classico dell'inefficienza della pubblica amministrazione. Finisce qui. Ho deciso per la risoluzione del contratto, è fin troppo chiaro che non vogliono che io lavori. Così Maurizio Scoppa, uomo forte che avrebbe dovuto mettere sotto controllo la spesa dei fondi europei in campagna, lascia e se ne va. 5 mesi fa l'annuncio. Era il novembre del 2013, arriva il generale, viva, si cambia, ma scoppa dopo 5 mesi, rinuncia a tutto, perché a tutto c'è un limite. L'uomo d'ordine che ha rapidamente dimezzato il bilancio della più grande ASL del Sud, il sobrio dirigente che aveva convinto i suoi riottosi collaboratori a lasciare i comodi uffici in fitto nel salotto buono della città per trasferirsi nella più scomoda periferia in locali di proprietà pubblica, si è ritrovato di colpo solo e disarmato. Questo gli è capitato non appena arrivato nel cuore del palazzo a Santa Lucia, dove c'è l'ufficio del governatore Caldoro e dove, racconta, tutti si aggirano con aria dimessa e dismessa, dal primo direttore all'ultimo usciere. Nulla mi hanno dato di quello che occorreva dopo 4 mesi e infinite insistenze. Ero un peripatetico. Il telefono, quello c'era, ma staccato, senza linea. Il computer, il mio, l'ho portato da casa. E così la carta e tutto il resto. Le lettere che ho scritto non ho potuto neanche protocollarle. Mai avuto una segretaria o uno staff, figuriamoci un addetto al protocollo. Eppure era il super consulente che avrebbe dovuto tenere sotto controllo la spesa relativa a 7 miliardi di euro negli anni 2007-2013. E invece niente. Quando cercavo qualcuno con cui interloquire, incrociavo solo sguardi distratti. Dario Gargiulio, il mio direttore di riferimento, l'ho visto 2 volte quando ho firmato il contratto e per caso all'aeroporto di Fiumicino. Buongiorno, come sta? E poi ognuno per la sua strada. Ma come si spiega questa fine? Ma è la solita, dice il generale Scoppa, insofferenza della pubblica amministrazione verso ogni sorta di controllo. È un mix di inefficienza e incapacità in cui annega la burocrazia, che più periferica è, peggio si comporta, per la certezza che tanto negli uffici nessuno ti dice mai nulla. Questo generale Scoppa, io dopo questo articolo vorrò assolutamente richiamarlo, perché è un personaggio, ripeto, straordinario. Noi l'abbiamo già avuto, è uno che ha dimezzato il debito dell'ASL di Napoli quando è stato messo lì come commissario straordinario. Appena arrivato fece questo, ha disdetto il contratto dell'affitto che si pagava nell'ASL di Napoli con soldi sonanti, perché adesso si è accorto che in periferia di Napoli c'era un edificio pubblico, e in 2 giorni ha fatto trasferire tutto e disse così, con un atto, con una firma, ho fatto risparmiare credo 500-600 mila euro di affitto all'anno. Così, quando si vogliono fare le cose si fanno. Ora, questo racconto di inefficienza e di abbandono, si può dire, anche della pubblica amministrazione. A proposito di questo, questa è la classica notizia che vi fa tenere ben stretti le mani sul volante, che vi fa stare tranquilli, sereni, è lunedì, affrontare la settimana con grande entusiasmo. Il Messaggero torna su una delle vecchie questioni con cui si identifica la casta, il potere, le auto blu. Il Sud resiste, scrive il Messaggero, alla scure del governo sulle auto blu. Pagina 8, Diodato Pirone: nelle regioni meridionali le vetture restano un appannaggio dei dirigenti. A Marsala, per esempio, ridente cittadina siciliana di 80.000 abitanti, nota per lo sbarco dei 1.000 di Garibaldi e anche per il famoso liquore. Allora, il comune, nel cui consiglio siedono ben 12 capigruppo, ci sarà anche lì i capigruppo dei gruppi formati da uno, immagino, ci sono ancora 4 auto blu, di cui una con autista esclusivo, e il comune di Marsala dispone altresì di 81 auto pubbliche complessive. Ma basta andare dalla parte opposta, a Messina, per trovare analoghe concentrazioni di vetture a carico di pantalone. Nella sola università di Messina, per esempio, 23 auto pubbliche, di cui 2 con autista. Una decina di automobili vantano cilindrate alte, 7 non sono usate. Così. Le tengono per vetrina, secondo il Messaggero. L'amministrazione provinciale di Messina invece dispone di 37 automobili pubbliche, di una ad uso esclusivo e con autista, altre 18 sempre blu, anche se non a uso esclusivo di qualcuno. E il comune di Messina, questa amministrazione con il sindaco Renato Accorinti, quello che si presentò scalzo al momento dell'insediamento, continua a disporre di un discreto numero di autovetture pubbliche, 71, di cui 2 blu con autista e ad uso esclusivo di qualcuno. La morale è che i dati parlano chiaro: ridotta negli ultimi fortilizi dei ministeri e nelle amministrazioni del centro-nord, l'auto blu invece la fa ancora da padrone al sud. Questo è quello che ha stabilito il Formez, che ha rilevato quanto segue: nelle 6 regioni più meridionali, su 100 auto pubbliche si contano tra 22 e 26 vetture ad uso di alti papaveri. In Piemonte, Toscana, Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, invece, su 100 auto pubbliche, quelle blu non superano il 5%. Dunque, al sud sono 22-26% delle auto pubbliche sono blu, al nord il 5% sono blu. Questo almeno è quello che racconta il Formez in questo sondaggio. Va bene, volete invece una classifica molto interessante prima della pubblicità che trovate sul Sole 24 Ore, pagina 17? Volete sapere quanto costa l'acqua nelle vostre città, visto che è tutto ciò che si misura poi in bolletta? Ebbene, c'è una classifica che domani Federconsumatori presenterà a Milano e che viene oggi anticipata dal Sole 24 Ore. Gianni Trovati ne parla a pagina 17. E che cosa racconta in questa classifica? Beh, l'acqua che si spende, 150 metri cubi d'acqua, costano in bolletta a Pisa 347 euro, la città dove costa di più. Cari pisani, che fate? Ci avete l'oro nel rubinetto quando aprite? Poi Siena e Grosseto 345, quindi Pisa, Siena e Grosseto, evviva la Toscana. E poi Enna al quarto posto, Prato, Pistoia e Firenze, quindi ancora Toscana, 332 euro. Poi Livorno, tutta la Toscana, oh, mannaggia, ma che è? E poi Urbino e Pesaro e Avellino, queste le prime 10-11 posizioni, dove costa appunto sui 347 euro. Se volete gli altri costi delle grandi città, beh, Milano costa 80 euro, è al 109 posto, è la penultima, cioè la penultima, quindi la più virtuosa come costo dell'acqua. A Roma invece costa 166 euro, questi 150 metri cubi d'acqua, è sempre il riferimento. A Napoli 164 euro. Pietro La Corte, vuoi sapere? So già lì che cosa vuoi sapere? In Sicilia. Ti ho detto a Enna 336 euro e poi non lo so, mo qua c'è tutta la classifica, mi fai. Vediamo se ho con lo sguardo. A Ragusa, ecco, beccato Ragusa, 91esimo, 158 euro. E poi sentiamo, ti passo il Sole 24 Ore, ma adesso non è che mi devi far sciorinare tutta la classifica. Tu volevi Palermo, io lo so, volevi Palermo, vabbè, non la trovo. Palermo. Senti, vai in pubblicità, va. 24 mattino. E allora eccoci qua, sui giornali è ancora un elenco di articoli e di prime pagine dedicate alla doppia inchiesta che la scorsa settimana hanno davvero squassato il mondo della politica e dell'amministrazione pubblica, sia la vicenda dell'Expo, di cui parleremo anche noi alle 8.15, e poi la vicenda Scajola. Allora, intanto la vicenda Expo, come racconta Luigi Ferrarella, pagina 5 del Corriere della Sera, continuano le intercettazioni pubblicate, stralci dei verbali dell'arresto delle persone. L'ex DC all'uomo Coop per l'appalto, chiami il suo pezzo di governo. Queste sono alcune delle intercettazioni. Per esempio, dicevano le persone arrestate sulla Città della Salute che questo progetto a Sesto San Giovanni di riunire l'Istituto dei Tumori e il BESTA, dunque due ospedali, centri di eccellenza in Italia. Sulla Città della Salute tra poco comincia la fase delicata dei progetti. Bisogna che io da parte mia e lei da parte sua facciamo ogni sforzo di collegamento che lei e io abbiamo sul quadro politico per portare a casa un risultato pieno nei limiti del possibile, per quello che posso fare io dalla parte del governo con cui ho rapporti. Questa è una carta che può servire anche a lei, perché un pezzo di governo ce l'ha anche lei, forse anche di più. Ecco, così parlava Gian Stefano Frigerio al grande capo di una cooperativa rossa da 15.000 dipendenti a 1 miliardo di euro di fatturato, vale a dire Claudio Levorato, amministratore delegato della Manutencoop Facility Management S.P.A., che scrive: Ferrarella si è abbassato a venire a Milano per incontrare il pluricondannato Frigerio, pluricondannato di Mani Pulite, nell'ufficetto del centro culturale Tommaso Moro. Secondo gli inquirenti, indagavano così come arrivare a pezzi ognuno del proprio governo, nel senso ognuno ai propri riferimenti del governo, per cercare di portare a casa appalti. E, appalti che venivano definiti come, in puro stile vetero democristiano, Frigerio si riferisce alle gare truccate chiamandole così premesse culturali. Le premesse culturali. A un certo punto a me interessa, dice Frigerio, anche se non ci sei tu, a me interessa che le premesse culturali le metta giù tu, perché sennò dopo, se uno comincia a dire i punteggi, non i punteggi, le valutazioni, questo parlava con Rognoni, che è stato anche lui emesso ai domiciliari, Rognoni, che lo tranquillizza: se anche se ne sta andando e se anche la gara verrà assegnata dopo di lui, è già tutto stabilito, il modo in cui la commissione si dovrà comportare è già stabilito, alla fine voglio dire sto facendo tutto io, facendo tutte le bonifiche, le approvazioni, insomma sono stralci di verbali e di dialoghi che trovate sui giornali a dire, a far capire, almeno da quello che si può capire da qui, che qualcosa di losco negli appalti c'era. Ovviamente un fronte che si è molto levato in alto è a questo punto no all'Expo, chiudiamo tutto, non siamo in grado. Ieri anche il governatore della Lombardia Maroni ha detto se non ci sono i soldi la regione è pronta a sfilarsi da Expo. Oggi in qualche modo risponde il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, intervistato a pagina 3 di Repubblica da Oriana Liso, e dice subito e mette in chiaro: l'Expo si deve fare. Come tutti sanno è un impegno che io ho ereditato, dunque non difendo me stesso, ma da tempo ormai non è più possibile parlare di scelta. Expo è un impegno solenne che l'Italia ha preso col mondo. Ci sono 140 paesi che si stanno preparando a intervenire, neppure una repubblica delle banane potrebbe tirarsi indietro a sto punto senza distruggere la propria reputazione. La credibilità di un paese è un patrimonio inestimabile, se alzassimo bandiera bianca sarebbe compromessa per sempre. Lo dico con forza, al naufragio di Expo sarebbe una rovina per tutti. Ricordo che sono attese 20 milioni di persone, si stimano 200.000 nuovi posti di lavoro, un indotto da 25 miliardi di euro con un valore aggiunto stimato di oltre 10 miliardi, effetti positivi previsti fino al 2020. Dunque, snocciolando questi dati, Pisapia dice assolutamente è imprescindibile. Ora ci aspettiamo quello che sta accadendo. Il ministro Martina ci è sempre molto vicino e sono convinto che il governo ci metterà tutto il suo impegno. A proposito di governo, domani Renzi è a Milano e attenzione, perché il Corriere della Sera dice che sul Corriere della Sera c'è questo nome. Il nome è quello di Mister X, che dovrebbe sostituire Paris, colui che è stato arrestato, e dovrebbe essere scelto dal commissario straordinario Sala come nuovo responsabile della struttura. Il Mister X sarebbe nelle fattezze di Marco Rettighieri, e leggo a pagina 8 del Corriere. Chi è Marco Rettighieri? Attualmente direttore operativo di Italfer, gruppo Ferrovie dello Stato, ma fino a 2 mesi fa era il direttore generale della LTF, che detta così può sembrare dire poco, ma vuol dire Lione Torino Ferroviere, cioè la società responsabile della parte internazionale della nuova ferrovia Torino-Lione, in particolare del tunnel di base e della galleria di Chiomonte, insomma l'uomo della TAV. Potrebbe essere lui, Marco Rettighieri, l'uomo messo al posto dell'arrestato Paris. L'idea di Rettighieri dopo Paris: Rettighieri è già arrivato ieri a Milano, ha incontrato Sala e ha visitato le zone dell'area dell'Expo. Questo è scritto sul Corriere della Sera, pagina 8. E poi arriva anche Cantone, capo dell'anticorruzione, domani sarà con Renzi ad accompagnare Renzi a Milano, e tutti i giornali raccontano che, sempre il Corriere per esempio pagina 9, Renzi chiama Cantone a vigilare, andiamo avanti, ci metto la faccia, vuole che in qualche modo Cantone, vigili su tutti i lavori dell'Expo. A proposito di Expo, c'è anche la polemica che riguarda le persone che vengono in qualche modo nominate all'interno dei verbali. Una su tutti è anche il ministro Lupi, tanto che oggi il Fatto Quotidiano a pagina 2 attacca così: una fame da lupi, da CL fino all'Expo. È il signore dei lavori pubblici dai tempi dell'assessorato a Milano. Questo è il profilo di Lupi, che viene intervistato da Repubblica, pagina 5, da Alberto D'Argenio. Si difende così: sono solo millantatori, la circostanza più spiacevole è doversi giustificare per cose che non sono minimamente accadute, davvero tutto imbarazzante, la mia reazione è uguale a quella di tutti gli italiani, stiamo mostrando al mondo che non siamo capaci di realizzare una grande opera come l'Expo senza sporcarci con la corruzione. Non ho mai sentito nessuno, non ho mai ricevuto bigliettini da parte di chi che sia, mai avrei immaginato di poterne ricevere. Immagina la sorpresa nel dovermi giustificare di qualcosa che non è mai accaduto. Dunque Frigerio per lei è solo un millantatore? Ma sì, una cosa pazzesca, non lo vedo, non lo sento da 4 anni, se avessi ricevuto un suo bigliettino lo avrei buttato nel cestino. Grazie a Dio le amicizie non me le sceglie Frigerio, e con Manutencoop, cioè questa grande cooperativa, non credo di aver mai avuto interlocuzioni. Si difende anche dall'accusa di CL. CL non entra in, dall'accusa, insomma, che CL abbia fatto parte di questa torta, faccia parte di questa torta. CL, risponde Lupi, non entra in nessuna indagine. CL è da sempre un movimento che educa la mia fede, il punto è la responsabilità personale di ognuno di noi, e se qualcuno sbaglia deve pagare. Dunque nessun problema dentro CL, siamo di fronte a un grande tema legato a ognuno di noi, siamo di fronte alla testimonianza, alla responsabilità di ogni singolo cattolico che viene giudicato per quello che fa. Vabbè, si difende Lupi da queste intercettazioni, sta di fatto che la situazione è certamente difficile. L'altra grande inchiesta riguarda Scajola, la vedremo credo tra poco, non so se posso dire a proposito di CL, saluto Mauro Meazza, adesso le 24 ore. Buongiorno. Mauro. È inutile che la butti sul religioso, perché sì, oggi bisogna parlare di mitologia, quindi sì, stavo studiando appunto della ninfa di Atalanta, lo sai che era famosa per la corsa, forse non lo sapevi, ecco. No, non lo sapevo. Ecco, disse che avrebbe sposato chi l'avesse battuta nella corsa, però se perdevi ti uccideva, quindi... Ecco, e quindi, il mito di Atalanta. Il mito di Atalanta è molto bello, come tutti i miti, come tutti i miti. Quindi, e perché ti è venuto in mente? Vabbè, non lo so. Stamattina mi sono svegliato mitologico. E tu cerchi di buttarla, diciamo, dopo la mitologia greca, ma io sono voluto tornare ai classici. Ai classici, bravo. Così come è un classico, diciamo, il nostro esperto risponde di oggi, come sempre in allegato. Un classico da 30 anni, l'esperto risponde. Come sempre allegato al Sole 24 Ore del lunedì, parliamo di cedolare secca e anche di parti comuni del condominio e di come bisogna fare in dichiarazione dei redditi. So che tu sei attento al condominio, oltre che alla mitologia. Tu più che alla mitologia, stavo dicendo. Certamente. Sei attento alla mitologia? No, perché mi sembrava che su Atalanta ti ho trovato impreparato. Sì, un pochino sì, insomma. Ma comunque per riuscire a sposare e battere Atalanta nella corsa e sposarla ci fu bisogno dell'aiuto di Afrodite, ma non sempre Afrodite come è disponibile, come infatti mi pare ieri sia accaduto. Ma non voglio divagare, sì. Avrai già visto Lo hai già fatto abbondantemente, no, caro ma Mauro. Perché sto legando tutto un ragionamento partendo dai classici, mi sembra chiaro. Giusto. Collegare i saperi. Volevo dirti, la giustizia telematica l'avrai vista come apertura, come stiamo messi, processo civile telematico che deve partire completamente a giugno, ma forse si partirà diversamente, quello amministrativo, quello tributario, insomma una specie di resoconto completo della situazione in Italia. E poi c'è questa settimana, lo sai che è la settimana decisiva, non per quello che dici tu, ma per il decreto sul lavoro, il decreto legge Poletti, dal nome del ministro. Ecco, ci sono delle dei dubbi di applicazione su questo tetto del 20%, ma se leggi poi Valentina Medis e Valentina Maglione e Francesca Barbieri, perdon, nella nostra pagina, capisci poi tutto il senso. Ottimo, poi ottimo. I costi dell'acqua, se uno già corre molto come Atalanta, poi gli viene sete. E quindi oppure, ma Atalanta gioca ad Atalanta? Non credo, no. Quando corre, Perché Atalanta, che c'entra Atalanta col gioco? Il calcio? Io il calcio aspettiamo i mondiali, quest'anno il campionato è stato saltato per i mondiali. Non capisco quindi questo legame del gioco con Atalanta. No, Atalanta, ti ho detto, era una cacciatrice. Ah, perfetto. E il mito ci insegna che era una cacciatrice. Vabbè. Poi non ti perdere Risparmio e Famiglia, perché da giugno, allora, visto che parli di mondiali, i mondiali saranno a giugno, da giugno entra in vigore un nuovo codice del consumo, ci saranno più tutele sulle vendite online e sulle vendite a distanza, le spieghiamo in Risparmio e Famiglia. E quindi, ad esempio, non so, metti, tu hai sbagliato a prendere un allenatore, poi non lo vuoi più, può succedere all'Inter, è successo spesso. Ecco, bisogna verificare se il codice al consumo in vigore da giugno in qualche modo va bene. Mauro, mi ha innervosito abbastanza, possiamo salutarci. Ne sono lieto. Va bene, allora, veloci come Atalanta, augurando a tutti di correre veloci come Atalanta, naturalmente quella del mito, non quella del calcio, annunciamo con una certa letizia, devo dire, quest'oggi, il traffico. E allora, eccoci qua, l'altra inchiesta, dicevamo, è importante, quella di Scaiola, migliaia di fascicoli su politici e favori, l'archivio di Scaiola sotto sequestro, è stato sequestrato il grande archivio di Scaiola, raccontano Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Ora sarà tutto ovviamente da studiare nel giorno in cui è stata arrestata la moglie di Matacena, tra l'altro il giorno in cui, come racconta Repubblica, vengono sempre più raccontati gli spaccati di questa inchiesta. Carlo Bonini, per esempio, a pagina 8 racconta: dai prefetti ai costruttori la rete di Sciaboletta. Sciaboletta è uno dei soprannomi di Scaiola. E uno degli spaccati delle fotografie, secondo me, dell'Italia più incredibile è proprio questa. Carlo Bonini: scopriamo dalle intercettazioni telefoniche che Claudio Scaiola, da Stefano, il suo capo scorta, si faceva chiamare ancora signor ministro, anche se non lo era più da 4 anni ormai, anche se Stefano gli era stato assegnato quando lui non era neanche più parlamentare. E tuttavia in quel sussiego c'era evidentemente qualcosa di più del rispetto untuoso che si pretende ai sottoposti. Negli ultimi tempi raccontano infatti che, nonostante fosse visibilmente provato politicamente, non rinunciasse ai modi arroganti, ora ammiccanti, di chi ancora pensa o è convinto di contare, come un ministro, per l'appunto. Inizia così questo spaccato di articolo, nel quale si parla appunto della situazione di Scaiola e anche di quello che era l'ultima fase temporale del suo modo di vivere la politica. Beh, poi c'è la politica. Per il momento c'è da dire che queste inchieste hanno messo in secondo piano la campagna elettorale, la solita campagna elettorale inutile, assolutamente priva di grandi contenuti. Per dire, i contenuti quali sono? Berlusconi dice: tornerò in Parlamento prima di 6 anni e promette dentiere per tutti. Grillo risponde a Schulz dandogli del crapò, aveva ragione Berlusconi, è un crapò. Voglio dire, è una campagna elettorale che si fa notare soprattutto per le dichiarazioni molto molto urlate. Mi interessava invece raccontare quella che è la prima pagina della Stampa: 100 nuove norme l'anno, il fisco soffoca le imprese. Paolo Baroni fa un focus poi a pagina 2 di questa notizia: nella giungla della burocrazia, in 6 anni 600 nuove norme. Non c'è niente da fare, non solo abbiamo una pressione fiscale particolarmente alta, ma anche quella burocratica è da record. Solo nelle ultime 2 legislature, scrive la Stampa, sono state 629 le nuove norme in materia fiscale adottate dallo Stato. Di queste appena 72, cioè l'11,4%, sono servite a semplificare le procedure, a carico delle imprese, 168 quelle neutre, mentre 389 hanno aumentato il peso delle scartoffie e degli adempimenti. In pratica, rivela un'analisi della Direzione Politiche Fiscali di Confartigianato, che viene pubblicata in anteprima dalla stampa, dal 2008 ad oggi quasi due nuove norme fiscali su tre hanno aumentato il carico di pratiche da istruire. Quindi non semplificare, ma complicare. Per la cronaca c'è da registrare una pagina del Corriere della Sera con il racconto sotto anonimato di Stella, 25 anni. Chi è? Facevo l'impiegata in Italia a 1000 euro al mese, sono diventata una frontaliera del sesso in Svizzera. Sbuffava ogni carta, ora guadagno più di un magistrato. Ho iniziato perché ero affascinata dai guadagni facili, non ho pudicizia o remore morale, ho un bello aspetto e credo che i soldi facciano la felicità. Non ho iniziato per fame, piuttosto ero affamata di denaro. Racconta: vado in Svizzera, ho un appartamento, lavoro come massaggiatrice, scelgo io con chi arrivare fino in fondo, mi sento tutelata, pago le tasse, la burocrazia non è lenta e non è sibillina, le cose funzionano. Quando chiedi un permesso che ti serva per lavorare come cameriera o prostituta, per loro non fa alcuna differenza, non mi sono mai sentita giudicata, ma anzi protetta, la polizia sa dove esercito, fanno controlli e ogni tanto penso alle ragazze che in Italia lavorano per strada. Se una di loro sparisce, chi se ne accorge? Il mio principio è chiaro, il mio corpo è la mia azienda, tutto qui. Se c'è qualcuno sfruttato, quello è il cliente che deve pagare per avere l'illusione di stare con me. Io gli vendo fumo, fumo rosa. Ho una sensazione di potere, certo ho anche un ego spropositato, ma ora guadagno fino a 10-12 mila euro al mese. Così racconta pagina 21 del Corriere della Sera, sotto anonimato, questa ragazza di 25 anni che fa la frontaliera del sesso. Va bene, ci sono anche tanti articoli, ma non c'è tempo sui 40 anni del divorzio, c'è solo il tempo per l'articolo più inutile sui giornali. La carta costa anche oggi, vince Il Secolo XIX, che con Marco Cubeddu, che è un giovane scrittore, fa una pagina intera dal titolo Sì o no al lato B? Una analisi approfondita di tutto quelle che sono le foto, il caso Bacchiddu, mostrare il culo o non mostrare il culo, ma vi rendete conto? Vi rendete conto come costi la carta? E non lo sanno. Un punto al secolo. Giornale Radio.